Radio Popolare vi ha presentato La Caccia. Caccia, l'ideologico quotidiano. Una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a tutti voi, grazie a Ezio De Gradi per la regia. L'appuntamento rimane confermato domenica prossima alla stessa ora. Buona giornata. Un ringraziamento a tutti quelli che ci scrivono. Andrea Cevoini ci scrive da Tokyo. Ci scrive da Tokyo dicendo che legge i nostri pezzi in internet. Sì, ricordatevelo, sul sito di Radio Popolare trovate sotto le trasmissioni La Caccia tutti i nostri testi, dal 98 a questa parte, se non mi sbaglio. E grazie anche a quelli che fanno dei nobili tentativi di migliorare le nostre capacità grammaticali.